Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Riceve la notizia alle 5 di Hakimi, positivo, doveva anche giocare, quindi avevamo preparato anche delle situazioni, è giusto affrontarle, ho detto ai ragazzi assolutamente di affrontare la situazione sempre con la testa alta, hanno dimostrato di essere uomini prima di tutto. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Battuta dentro a cercare una deviazione e arriva Lukaku, il pareggio dell'Inter, ancora Lukaku, è una doppietta pesante, l'ho toccata io, sembra dirlo anche ai compagni. Pareggio come oggi per me non è un buon risultato perché possiamo fare di più e anche la difesa dobbiamo fare meglio perché prendiamo due gol, errori nostri, però anche offensivamente abbiamo sbagliato tantissimo di occasioni, questo dobbiamo essere più forti. Da Miranchuk, calcia da fermo! Qualità! 4-0! Quest'anno abbiamo bisogno di partire bene a differenza dell'anno scorso perché c'era questa gara, adesso ne abbiamo le due in casa molto impegnative con Ajax prima e Liverpool dopo, quindi in una settimana ci giochiamo molto di quelle che sono le possibilità di superare il girone e quindi abbiamo bisogno di fare bene subito e questi tre punti sono fondamentali. Beh, WhatsApp vocali ne vedo già diversi, 349-238-6666, mo li scarichiamo, poi li facciamo sentire. Le vostre telefonate 800-24-0024 per questo primo giro di giostra in Champions League, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo a Radio Tweet dopo la telecronaca dell'Inter di ieri sera. Allora, innanzitutto devo parlare sì Radio Tweet, mi hanno scritto ogni giorno sugli attaccanti delle squadre italiane, quindi... quindi Majoral, Ibra, lo sapevo che avevi strappato un ingaggio, lo sapevo. No, queste sono scaramanzie, speriamo che insomma l'Europa League porti gli stessi risultati positivi che ha portato la Champions. Quindi è per Ibra? Ibra? Per no. Però vorrei fare sì, Ibra, Osimhen, Majoral, dai, è una gag. No, invece vorrei farli per Pelé, perché stiamo leggendo e stiamo rivedendo le poche cose realmente visibili di questo giocatore e viene in mente il paragone fra epoche che ovviamente non ha una risposta ai confronti che non servono a niente, però insomma ti dà il senso di come certe cose sono talmente lontane che fai fatica a contestualizzare il valore di un giocatore che però ha fatto più di 1200 gol in carriera e basta vedere alcune giocate che ci sono in questo momento virali sui social e sul web per capire la grandezza di questo calciatore, che è stato il primo vero grande eroe del calcio, no? Il primo vero grande fenomeno mondiale. C'è stato Stefano prima, c'è stato Puskas, però insomma per lui è stato il primo, il metro di paragone di tantissime altre cose, anche il Maradona è meglio Pelé, se è meglio Pelé ammesso che lo sia e il dibattito ovviamente è aperto. Amico mio, anche il metro di paragone del tempo che passa, ciao Maurizio Crosetti, certo. Fa 80. A proposito del tempo che passa. A proposito del tempo che passa. Invece ragazzi, che voto date all'Inter? Parto da te Maurizio. Una domanda banale, facile, proprio... 6,5, che poteva anch'io essere anche 6 senza certe distrazioni. Se Vidal non fosse stato un po' distratto, però è anche ingeneroso dire che dipende solo da lui, dopodiché ha sbagliato due cose decisive in due momenti chiave. Però l'Inter in generale mi dà l'impressione di essere una squadra un po' triste, un po' pesante e un po' col muso, no? Sai quando si fanno le cose col muso, che le fai magari anche bene, avresti anche le doti per farle meglio, però se non sei contento non ti vengono. Anche se sei bravo, se non sei contento non ti vengono. Ma da Conte ti aspetti nient'altro che una squadra luterana, non è che ti aspetti... Sì, luterana ma accesa, sì, però accesa da un fuoco sempre un po', come dire, controriformista. Se proprio dobbiamo dire, cioè quantomeno un po' di fiamme monacali, che non sono quelle dell'inferno a cui vengono concessi e consegnati gli eretici, però insomma qualcosa che accenda gli occhi e l'anima di quelli che stanno sempre dalla sua parte o contro, ma quelli che stanno con lui sono i missionari, cioè lui è un Savonarola del calcio e quelli che stanno con lui sono dei monaci assoluti. Invece ieri sera sembrava una squadra di chicchetti, cioè non sembravano guidati da Savonarola ma da Don Abbondio. Pierluigi, Crosetti, inarrivabile, ragazzi. Così in alto, che altro posso aggiungere? Poi io darei un 6, perché secondo me la prestazione è anche da 6 meno meno, onestamente. Perché comunque l'Inter queste partite qui le deve giocare meglio, però poi c'è un'emergenza che è oggettiva, che non è un alibi, non deve diventare un alibi, ma è oggettiva. Sarebbe veramente ingiusto, secondo me intellettualmente scorretto, non riconoscere che l'Inter in questo momento è in una condizione che è soltanto il Genoa in questa prima parte della stagione ha avuto un impatto ancora più pesante dal Covid. Guarda, assenze di vario tipo. Tu sai benissimo, conoscendo questo palcoscenico ormai da quasi 10 anni, sai benissimo che adesso arriveranno un sacco di messaggi dicendo: ah, solvete l'Inter, ah, ma guarda cosa fanno. Io ho detto che la prestazione è 5,5 e do 6. No, ma io do 6,5, io sono d'accordo con Maurizio, perché chiaramente non è stata brillante, chiaramente è stata un po' monastica o scolastica, se vogliamo. Non si tratta di assolvere nessuno, anche perché non ce ne frega niente, però l'Inter sta convivendo con il virus e le difficoltà, sai, convivere col virus è una roba che ci dicono 100 volte al giorno, e con le difficoltà che ne derivano, con buona sobrietà, e questo io lo sottolineerei insieme a voi, sì, Maurizio. Sì, poi ci sono, secondo me, in questa analisi complessiva, alcune cose da dire. Ma su una difesa che è arrivata al paradosso di rimpiangere Godin, non perché Godin non fosse un buon giocatore, ma perché insomma sembrava, no, non più da dimensione di grandissima squadra come nelle ambizioni dell'Inter, però in un momento come questo avrebbe fatto estremamente comodo. E c'è una, dal punto di vista della produzione e del gioco, insomma, c'è tutta una ricerca ossessiva di questo fenomeno assoluto che è Lukaku, che ogni giorno non è sorprendente, perché sai come la penso dal giorno zero, d'altra parte quando hai uno così è quasi fatale rimanerne un po' prigioniero. Mao, sì, lui è veramente il gigante buono, quello di Giocondor, che ha qualche anno in più, se lo ricordano. Gigante, pensaci tu, della pubblicità delle merendine, degli ovetti, c'era il cattivissimo Giocondor che era un po' sfigato, un condor aviatore col cappello da aviatore, e poi alla fine però tutte le situazioni un po' difficili le risolveva appunto il gigante, e Lukaku è un bel solutore di enigmi, e che non può essere l'unica risorsa, perché comunque nel gioco dell'Inter c'è qualcosa che non si srotola prima di Lukaku, poi lui va, viene, scende, spinge, tira, segna, crea spazi, c'è un giocatore micidiale, un giocatore doppio, triplo, meraviglioso, devo dire, un giocatore meraviglioso. Mm-hmm. Però poi, insomma, prima di lui e oltre lui, una grande squadra ha bisogno di qualcosa in più. Adesso, certo, l'abbiamo detto, le attenuanti, una difesa così non è una difesa né da scudetto né da Champions, ma è anche una difesa pesantemente condizionata, certo, no? Dei vuoti, e poi però certo che nel momento in cui qualcuno deve pensare il gioco, non trovi nessuno lì in mezzo adesso, e questo forse è il problema maggiore dell'Inter. Potrebbe essere Eriksen, però il dibattito di Eriksen ci porterebbe via tutta la puntata, e non, forse non possiamo. Anche Vidal è un giocatore, al di là di ieri sera, un giocatore di grande peso, di carisma, un trascinatore, e uno che il suo lo farà, e anche Kolarov lo farà, anche se è un po' in ritardo, io sono convinto di questo. Poi sono due vecchietti, ovviamente, un po' sì. Mi pare che il cerebro, come dicono in Spagna, no? Il cervello, la capoccia della squadra, fino adesso non si veda tanto. Non se ne vedono tante in giro in generale, che è una cosa che vale anche per una considerazione, può valere anche per la Juve. Pier, dovendo riassumere il tutto al netto delle assenze, che sono, ripeto, non un alibi ma un elemento oggettivo, e sarebbe intellettualmente sbagliato non riconoscerlo, secondo me il tutto si riassume, se parliamo di Conte, in una sfida che è quella di mostrare curiosità verso anche cose nuove. La forza di Conte è nella ripetizione, è nell'ossessività, è nella forza anche psicologica con la quale riesce a inculcare i suoi concetti e la sua idea di calcio ai suoi giocatori. Questo è indiscutibile. però ho la sensazione che alcune volte questo diventa un limite, nel senso che si cerca sempre la stessa soluzione, sempre lo stesso modulo. Conte non è previcente, quindi sicuramente ha ragione lui, però io credo che se l'Inter vuole fare un salto ulteriore di qualità, un po' di curiosità per vedere che altro c'è là dietro, Conte se lo debba mettere sulla rubrica. Poi ripeto, in questo momento sì, non ho cambiato idea, penso che l'Inter abbia una rosa pazzesca, penso che abbia un grande allenatore, tante possibilità, in questo momento è... No, ma è siamo tutti allineati sulla sua stessa lettura. Però in certi lettura. Momenti, ed è il piccolo limite secondo me di un grande allenatore, indiscutibilmente un grande allenatore, in certi momenti c'è anche il piano B, in certi momenti c'è anche... Tu pensa come sta cambiando Gattuso, perché è ancora giovanissimo, deve farci tutto, no? Come allenatore deve ancora costruirsi i successi, però Gattuso in questi mesi ha mostrato una... capacità di cambiamento, di adattamento, una curiosità che secondo me, insomma, se dovessi dargli un consiglio, gli direi forse c'è anche altro. Poi magari la strada ti porta a dire che è meglio comunque insistere sulla via che conosci, perché è la più collaudata, è probabilmente il ragionamento che ho fatto Conte mille volte. Dopo Lazio-Inter, quando l'Inter aveva vantaggio numerico, gliel'ho chiesto su perché non provare, anche con una certa dose di coraggio, su perché non provare nel finale magari a cambiare, a mettersi a 4, perché la Lazio in quel momento era oggettivamente di inferiorità numerica, e lui ha fatto un ragionamento che non fa la piega, no, razionalmente, sul fatto che i giocatori hanno delle idee ormai talmente collaudate, un modo di ragionare talmente collaudato, che i costi sarebbero stati più alti dei benefici. Però io credo che a grandissimi livelli, e forse soprattutto in Europa, in certi momenti avere un piano B, avere delle soluzioni diverse ma vedi che alla fine ci allineiamo tutti al Crosetti pensiero. No, ma è anche perché, tra l'altro, mi collego a quello che ha appena detto Pier, il primo Conte allenatore era davvero invece molto curioso ed utile. È chiaro che poi all'inizio tutti della nostra strada professionale cerchiamo per l'appunto un percorso, no? Quindi siamo forse un po' più freschi, un po' più curiosi e anche un po' coraggiosi, forse. Però quella duttilità poi l'ha un po' abbandonata, e adesso sono d'accordo con Pier, l'Inter avrebbe bisogno anche di ogni tanto di scartare un po' di lato, altrimenti diventa la famosa locomotiva, no? Sì. E invece deve essere un po' bisonte. Sì. Quest'anno potrebbe anche bastare, perché ripeto, io ho una grandissima stima della rosa dell'Inter, secondo me al di là di qualche cosa, ecco, per esempio questo Godin, forse un centrale in più vero, un marcatore in più vero forse, l'avrei tenuto. Poi certo, parliamo adesso con Bastoni che ha avuto la luce di tutto quello che è successo, per carità. Però insomma, secondo me lì forse un piccolo rischio in una rosa che ha speso comunque tanto, con tanti giocatori che sono arrivati, se l'è preso. Però è vero pure che secondo me a livello di robustezza complessiva questa è una rosa che, quindi potrebbe avere anche ragione chi dice stiamo su questa strada perché alla fine i risultati arriveranno, eccetera. Però in generale, in alcune circostanze, questo non vale soltanto oggi, questa curiosità secondo me potrebbe far bene. Leggerezza e sorriso, ci allineiamo, dicevo prima, al Crosetti pensiero espresso anche oggi su Repubblica. Leggerezza e sorriso che invece sono tornate ad essere abbondantemente insieme all'Atalanta, che si è subito messa alle spalle la giostra di Napoli. Ma d'altra parte io lì non dimentico e non posso dimenticare le parole di Gattuso quando disse quel giorno: sono stati anche bravi, perché un'altra squadra contro questo Napoli che si è preparato per 2 settimane ne avrebbe presi 7-8. Beh, l'Atalanta ci allarga il cuore, insomma, e ci lucida gli occhi e ci allarga il cuore, e non è che vada sempre benissimo, ed è una squadra diseguale, fortemente diseguale, ora forse un po' meno, e lì si gioca la scommessa. Se lo sarà sempre meno, diventerà davvero una grande, e l'anno scorso è arrivata quasi fino in fondo alla Champions, avendola cominciata con 9 gol nella propria porta, e quindi adesso è tutta un'altra storia. Ieri sera nello Jutland abbiamo visto quanto una squadra oggettivamente molto debole, però questi meccanismi, questa felicità di gioco, ecco, all'inizio dicevo che l'Inter mi sembra una squadra col muso, invece l'Atalanta è sempre una squadra cioè sembra un emotico, no? Una faccina che ride, l'Atalanta è così, perché comunque ha questa facilità che è felicità insieme, e spesso le due parole diventano la stessa, non a caso si assomigliano nella nostra lingua, no? La felicità e la facilità nell'Atalanta sono quasi una stessa parola, nei meccanismi d'attacco soprattutto, perché è una squadra veramente che ti dà l'impressione in certe partite di poter far gol ad ogni azione. Certo. E questo è impressionante, ma non perché gli altri sbaglino, non solo, anche di fronte a difese che sanno il fatto loro, l'Atalanta ti dà questa impressione. Infatti Gross, sono curioso di vedere il Napoli, perché abbiamo visto al netto delle cose che lo stesso Gattuso, devo dire che con la solita grande onestà, ha riconosciuto, cioè il riposo e la preparazione di quella partita, per carità. Però noi abbiamo visto il Napoli, al Napoli l'altro giorno, riservare all'Atalanta il trattamento Atalanta, no? Quindi quella questa felicità, questa leggerezza, questo essere anche un po' cannibali nell'andare comunque a cercare il gol, poi nel secondo tempo ha gestito il Napoli, ma insomma onestamente sul 4-0 ci stava. E sono curioso per vedere se il Napoli sarà la prossima Atalanta, anche no, perché questa... poi probabilmente avrebbe anche forse più esperienze, forse in generale non so se più qualità, il dibattito è aperto per poter fare addirittura meglio. Quindi però ecco, come filosofia di gioco, quello che abbiamo visto l'altro giorno dal Napoli è stato clamoroso. Oggi c'è già una conferma al netto di tutte le preoccupazioni su questa partita, che chiaramente rimandano ad altri temi, perché chiaro, poi alla fine la possiamo girare come vogliamo, sui social si tira sempre soltanto dal punto di vista del tifo, ma qui il problema invece è serissimo, ed è quello del rapporto fra le istituzioni calcistiche e la voglia del calcio di continuare a vivere con delle regole, con dei paletti, e le situazioni che sono emergenziali. Allora, mi sembra che la parola del giorno sia curiosità, no? Allora, ve la lascio in attesa di tornare collegati tra un attimo. Inter, una squadra vecchia e piena di scoppiati, come il loro allenatore. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Io credo che l'Atalanta possa farcela a passare il turno, ha un gioco veramente spettacolare. Sul secondo gol che abbiamo subito, la colpa non è di Vidal ma è di Bastoni, che dopo l'anticipo è uscito all'avventura. State forse dicendo che l'Inter ha fatto un gioco monastico, nel senso che hanno fatto una partita da mona, come dicono i veneti. Salutatemi il mitico Maurizio Crosetti. Dite, saluta l'Alberto da Desio. Ciao. Ti becchi anche i saluti. Beh, Alberto è un grande, eh. Io l'ho riconosciuto, è un grandissimo. E questa della Mona me la gioco. Te la giochi. Ma poi posso viva l'ironia. Ma chiaro, sempre. No, viva l'ironia, saluto. Sempre. No, io me ne gioco invece un'altra, perché alzando lo sguardo sul resto della Champions, dopo il primo giro, a parte il Bayern, che è, vabbè, in questo momento credo ingiocabile per tutti, non è esattamente il panorama di Las Vegas. Liverpool che vince contro l'Ajax, girone dell'Atalanta, grazie a un autogol. City in rimonta e di polemica, peraltro, su quel rigore che... discusso e discutibile, ho visto Cesare ieri sera, non l'avrebbe dato perché c'era un fallo sul portiere prima, netto peraltro. Il Reale Barcellona, mi gioco questa, Maurizio. Reale Barcellona mi sembrano come quei ricchi che sono rimasti senza soldi, ma hanno ancora un bel orologio e una bella macchina. Eh beh sì, però qualche paghettina in tasca ce l'hanno ancora, è vero, però sì, sono in un momento di tutte e due di passaggio. Hanno un bel po' di giovani interessanti, hanno qualche vecchio forse un po' brasato o sulla via dell'esserlo, però arriva il classico e insomma è un po' come la Sanremo, un po' come il Mondiale, un po' come la tappa del giro con lo Stelvio, ragazzi, ci sono delle cose che sono dei classici e quindi alla fine sì, è vero, magari si impegnano l'orologio per farci divertire questa volta, no? Il Barça e il Real, però insomma pure quando prendono danno delle manite. Io le abbraccio tutte e due, queste due squadre che mi hanno fatto tanto divertire. E Zidane rischia, però, leggiamo, Pierluigi, dopo aver perso in casa con lo Shakhtar al primo tempo 0-3. Sì, poi c'è anche questo fattore di parlare da Bavini, sono d'accordo. C'è anche questo fattore, secondo me, Debas, che un po' pesa. Perché in questo momento c'è poco, no? C'è poco della grandezza del Real che conosciamo, c'è poco della sacralità della Champions, ci sono sorprese assortite, più c'è anche questo piccolo elemento scenico, come direbbero gli spagnoli, e quindi non c'è più il miedo, non c'è più quella sensazione che viene dal pubblico, per carità, non dalle architetture. Puoi essere pure Herzog e De Veron, ma non è poi la forza del resta il fatto che il Bayern farlo giocare anche al campetto dietro l'angolo, se ne impippa e ne sbatte 4 sì, chiunque. Sì. E poi comunque c'è da dire che il Real sta facendo in voce. Quindi, dal punto di vista diciamo imprenditoriale e progettuale è una scelta assolutamente giusta, perché si approfitta di una situazione drammatica, di un momento di crisi come questo per ammodernare il proprio stadio, quindi è assolutamente condivisibile, certo. E lodevole, però è chiaro che insomma vedere la Champions su quel campo, immagino che così come fa effetto a noi vedere che si gioca lì, faccia effetto anche a chi scende in campo, no? Oltre ovviamente all'aspetto più importante è quello tecnico, perché Real in questo momento è in difficoltà oggettiva. L'amichevole infrasettimanale. Io invece approfitto degli ultimi secondi di presenza di Maurizio Crosetti per strappare anche una battuta sul Giro d'Italia che si arrampica sullo Stelvio, ma voglio fargli commentare queste parole di Vegni, direttore del Giro. Mi stupisco che ogni giorno o non ne ha più nessuno, oppure è strano che non attacchi mai nessuno e provi a scalzare questo ragazzo. Sestriere, sì, sarà duro quello che vuoi, però da quello che abbiamo visto di questo ragazzo sarà difficile recuperare a questo ragazzo qui. Ci arrampichiamo sullo Stelvio, poi Colle dell'Agnello ce l'hanno tolto, agnello sacrificale, peccato. I francesi non ci vogliono, vabbè, però è un giro, Maurizio, che fa un po' fatica ad accendere gli entusiasmi proprio perché non vedi quella garra che ti aspetteresti da chi insegue, un sogno. Ma è tutto sfasato, è tutto sgangherato, è tutto asimmetrico nel mondo e quindi anche nello sport e quindi anche nel ciclismo, che si muove in questa specie di bolla in un momento di grande passaggio con campioni un po' sparpagliati di qua e di là o anche introvabili. Il nostro ciclismo ha recuperato una suggestione storica fantastica con questo Filippo Ganna che farà una carrierona, però dietro di lui, accanto a lui, non c'è quasi più niente. Aru e Nibali sono vecchiati. Non ci sono nuove leve, non vinciamo mai niente, non vinciamo classiche, non accendiamo la fantasia nelle grandi tappe delle grandi corse, per cui un po' quello manca. E poi anche più in generale non è un ciclismo di campionissimi questa, però stanno arrivando dei nuovi insomma interessanti, Van Aert, Van der Poel, Hirsch, lo stesso Ganna, cioè è un passaggio di un po' come succede nei giovani del Barcellona, del Real Madrid, della Juventus. Ci sono questi momenti di snodo, queste cerniere, no? Nella storia dello sport e delle singole discipline, delle squadre. Il ciclismo in questo momento patisce questo e poi soprattutto patisce il fatto di essere uno sport che va dentro le strade, va dentro i paesaggi, e queste strade oggi sono chiuse, sono spaventate, sono minacciate, sono colpite dal male, dalla malattia. Quindi il ciclismo prende atto di camminare, di muoversi dentro un mondo malato, e quindi anche lui fa molta fatica. Però non dimentichiamo che proprio il ciclismo diede il segno quando il mondo malato del secondo dopoguerra doveva ricominciare. Proprio il ciclismo indicò la strada dentro le strade, no? Il ciclismo di Coppi, Bartali, delle case diroccate, e fu un segnale forte di ripresa. Anche il Grande Torino dal 45 in avanti furono gli atleti a dire a molta Italia che si poteva ricominciare, e io ho anche questo piccolo sogno, che forse è anche un po' un'illusione, no? In questi giorni di nuovo terribili, che venga il tempo in cui i nostri amati atleti ci dicano: ragazzi, si vive di nuovo. Tanto ce li teniamo stretti pur con tutte le loro difficoltà. Ed è una sottolineatura che proviamo a fare tutti i giorni in questo tempo di polemica. Ho visto quella meravigliosa, incredibile vignetta, non so se avete visto, del Titanic che affonda. Cosa sarebbe successo oggi nell'epoca dei social network durante l'affondamento del Titanic, con quelli che dicono che è un complotto, quelli che dicono che però il giubbotto non me lo metto perché non mi fido, quello che dice, sai, insomma, quello che sta sulla parte alta della nave, dico io sto a 3 metri di altezza, a 20 metri di altezza, mi sembra vada tutto bene, insomma, ecco, cioè, proviamo a ionizzare su questa cosa terribile, e lo sport ha questa forza, lo sport ha questa funzione e avrà questa funzione, che non vuol dire che debba essere praticato a tutti i costi, perché se non ci sono le condizioni è giustissimo che non venga praticato, però che abbia un valore, che è un valore simbolico, come forse anche più della cultura, perché la cultura, a parte che è una cosa talmente vaga e talmente complesso definire solo di cultura, lo sport stesso è cultura, no? Però voglio dirti, con tutto rispetto per i musei, per le cose alte, per le cose, cioè, lo sport è cultura che arriva a tutti, che fa parte del racconto di un popolo, di un continente, di un universo, e da questo punto di vista io penso che avrà una funzione fondamentale, come l'hanno avuta, diceva giustamente Maurizio, il Grande Torino, certo, il ciclismo del dopoguerra, ecco. Certo, basta riconoscerlo comunque, e su questo piano credo si possa essere ragionevolmente d'accordo. Grazie Maurizio, a presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, sempre ciao. Bello. Borsa, torniamo. Noi milanisti abbiamo goduto come ricci ieri sera. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Tutti convocati. Ma all'Inter ieri mancavano 5 giocatori, di cui uno era Radu. La Juve ha fatto la partita in Champions senza De Ligt, McKinney, Dybala appena rientrato, Cristiano Ronaldo, Chiellini se n'è andato subito, Sandro, Khedira e non mi ricordo, insomma sono 7. E vediamo se Lukaku riesce a fare quelle cose che voi dite adesso, quando c'ha 39 anni. Inter squadra sopravvalutata, signori, squadra di figurine. Comunque non c'è problema, quest'anno si sa chi vincerà il campionato, ed è la squadra rossonera di Milano, ovviamente. Conte è sopravvalutato, è come Giampaolo, usa sempre lo stesso modulo, compra sempre i giocatori adatti a quel modulo, e quelli che non sono adatti a quel modulo non li sfrutta a dovere e non li valorizza. Non ho tutte le certezze, cari nostri ascoltatori. Beh, all'Inter mancava Radu, ma mancava anche l'intera difesa, Hakimi fuori un'ora prima della partita, eccetera eccetera eccetera. Non mi sembra fossero assenze di poco conto, ma questo detto senza difendere nessuno, perché ripeto, ce ne importa pochissimo a me e al mio amico Pardo. Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, un saluto al Pardone, con quale condivido la passione del golf, che però vedo che sta lasciando parecchio indietro. No, deluso dall'uomo, deluso dal nostro tecnico Conte, ma soprattutto voi, poi lo sapete meglio di me, dovreste saperlo meglio di me, la delusione è data, vabbè, scende personale a parte, sta mettendo questi diversi giocatori sempre fuori ruolo. Ieri la dimostrazione, Eriksen lo sapete come gioca, non gioca così. Kolarov, vabbè, tutto da vedere, e poi soprattutto ieri sera anche il suo uomo, 2 anni per averlo, Vidal, e poi lo mette lì a ballare davanti alla difesa e a condizionare tutto quanto. I gol, le statistiche poi, che nel golf sono importanti come anche nel calcio, cosa siamo, il maggior numero di difese, il maggior gol subiti in Italia o giù di lì, ecco tutto questo. Quindi grossa delusione, spero che si cambi, perché uno può anche, cioè, voglio dire, l'uomo Conte può anche capire che, voglio dire, così non va e può cambiare, punto di domanda, o continua sempre a flappare, e flappa oggi, flappa domani, e flappa dopodomani. Siamo gergo golfistico, siamo. Esatto, boghi oggi. No, doppio, triplo boghi, flappa e basta. Non esageriamo. Diciamo che al momento l'Inter è un po' sopra il par, cioè poi la partenza, però la stagione è molto lunga. No, ma per me la scelta vera è quella là, è quello che diciamo prima, cioè capire se conviene cambiare qualcosa per rinnovarsi, o se insistere su questa strada partendo dal presupposto che darà i suoi frutti. Su Kolarov, secondo me, l'esempio ce l'hai alla fine. Kolarov appena è entrato Bastoni, quindi andrà a fare l'esterno a 5 e quinto. come dicono tutti, che è il suo lavoro, e alla fine fa la cosa migliore della sua partita con quel cross da cui poi nasce la palla goppa col calcio d'angolo del gol del 2-2. E quindi questo è secondo me indiscutibile. Ci sono dei giocatori in questo momento, D'Ambrosio e Kolarov non sono due marcatori, sono due adattati in quel ruolo. Mi lì sembra che molti debbano adattarsi, anche Vidal in quella posizione ha tentato di adattarsi, ma ragazzi, anche lì non è il suo lavoro. Vidal ieri fa una partita paradossale, nel senso che secondo me gioca una buona partita. In alcuni momenti, secondo me, con una particolare ispirazione dovuta a un paio di immagini dopo l'errore che porta al calcio di rigore, proprio di reazioni agonistiche di altissimo livello, e poi commette due errori che in uno sport a punteggio basso come il calcio sono decisivi. Quindi, secondo me, questa. Però, in generale, a me ieri Vidal non è dispiaciuto. Poi i 5 se li merita, è ovvio, non puoi non dargli 5 perché condiziona la partita tantissimo, però nel senso che finisce per fare due ingenuità clamorose che condizionano il risultato, ma dal punto di vista della lotta, no? dei 90 minuti io non l'ho visto male, sinceramente non l'ho visto male. Poi si può discutere ovviamente sulla posizione in campo. Eriksen è più interessante come differenza. Storia Eriksen è più interessante come che storia. Voto dai Eriksen? 6, quindi sei un po' stretto, un po' più stretto rispetto a valutazione. Ho visto oggi anche sul 6,5 così. Ma sì, insomma, siamo lì. Per me è una partita sufficiente. Si è impegnato, ha provato a fare il suo, ha costruito. Cioè, è chiaro che il giocatore che abbiamo visto anche recentemente, perché ripeto, non è che abbiamo visto, dice uno che due anni fa era un grande giocatore, no, uno che una settimana fa, quella Danimarca, era un grande giocatore, un leader assoluto. Però è vero pure che quello che vediamo all'Inter non è assolutamente in linea, e quindi sarebbe sbagliato, anche qui sarebbe intellettualmente scorretto secondo me dare solo la colpa a Conte e dire che lui non è in grado di farlo sbocciare. C'è sicuramente una componente tattica che non lo aiuta, ma c'è forse anche un atteggiamento del giocatore che qui si trova più in difficoltà. Sì, non è tecnicamente può succedere, può succedere. Può succedere che. Lunga, che... No, ma infatti, però può anche succedere che la coppia non funzioni. Ci piacevamo, ma non stiamo bene insieme. Non funzioni, ma per come è iniziata la stagione dell'Inter, per la quantità di variabili che ci sono in questa stagione, in maniera particolare, secondo me rinunciare al tentativo di amarsi, uso la tua metafora, secondo me è sbagliato, perché stiamo parlando di uno che ha fatto quasi 600 partite in carriera, sicuro, che è stato un leader e che qualcosa da dare sicuramente ha, quindi io penso che ci proveranno, e in fondo anche il fatto che ieri, d'accordo, l'emergenza, tutto quello che ti pare, ma ieri ha avuto una possibilità da titolare, cioè non è che Conte l'abbia messo fuori rosa, ci mancherebbe altro. No, però devono continuare a provarci. È spesso fine a se stesso, anche in alcune giocate indubbiamente belle. Giuliano Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, buongiorno Pier, grazie per la convocazione. Volevo fare una domanda che un pochino che sollevo proprio dalla tecnica specifica, ma volevo chiedervi se provate lo stesso fastidio per delle affermazioni di Conte, una l'avete fatta sentire anche poco prima, che dice sempre, fa leva sempre su questo fatto, dimostriamo di essere uomini, cioè stiamo parlando di signori professionisti che prendono fiori di milioni, quindi a me questa affermazione sempre di dover stimolare questa cosa, non sono sufficienti i soldi che prendono, ma dobbiamo stimolarli anche sul fatto di essere uomini, secondo me ha qualche problema. Ma esternazioni di macismo, dichiarazioni di macismo di Conte, ma non so. No, ma siamo nell'ambito, posso capire il concetto, insomma, sicuramente c'è molto più coraggio nell'alzarsi tutte le mattine, andare in fabbrica o in ufficio piuttosto che questo, scusate il momento qualunquista, però è la verità, insomma, cioè, stiamo parlando comunque di persone molto molto fortunate. Sono fortunato io che non pago per andare a vedere le partite e mi pagano, quindi figuriamoci loro che le giocano e guadagnano 100 volte quello che guadagno io, quindi assolutamente, detto questo, non ci trovo niente di male, nel senso che fa parte di una parte di un linguaggio che secondo me è accettato e accettabile, un po' di retorica sportiva, ma questo secondo me non va dimenticato, nel senso che c'è la differenza, secondo me, che esiste rispetto ai lavori normali, è lì, cioè comunque la prestazione è sovrana, alla fine della partita uno vince e l'altro perde o al massimo si pareggia, quindi in questo senso, in questo tipo di narrazione essere uomini significa in un momento di, cioè, che Hakimi ieri alle 5 del pomeriggio, che improvvisamente ti salta, è stato uno dei migliori della stagione, sia stato un problema, questo è indiscutibile. Sì, sì, infatti, indiscutibile. Poi, l'ho detto prima, no? Quindi, si sta convivendo con i problemi che ci sono e con le difficoltà connesse, quindi certamente è indiscutibile, certamente risottolineo il fatto che l'Inter si sta comportando comunque, al di là del linguaggio, della dialettica, dei richiami di Conte, con encomiabile sobrietà di fronte a queste difficoltà, perché non arriva lì a dire ah, ma mi manca tutta la difesa, che posso fare? Allora fermiamoci un attimo, poi cambiamo discorso. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Pierluigi, non puoi capire il mio disagio, nel monitor collegato in streaming con lo studio di Roma sto vedendo Parenzo che mangia un panino, pensa a te come sono messo. Naturalmente, il paese reale, naturalmente, alto basso. Ciao Mauro Berruto, come stai? Ciao, buongiorno. Beh, ciao. Come tutti, con la mascherina e con l'elmetto sulla testa, diciamo. Non ti abbiamo chiamato per farti sanguinare il cuore granata, chiedendoti un pensiero sul Torino, ma anche perché il tuo intervento sollecitato, ti abbiamo girato una mail di un ascoltatore sollecitato da non solo lui, ma da diversi ascoltatori su uno dei temi del giorno, perché siamo tutti preoccupati non solo per la salute fisica nostre, delle persone più deboli, ma anche per quella mentale dei nostri figli e nipoti, perché è uno dei temi più caldi e più sentiti, appunto basta leggere la corrispondenza che ci arriva, è proprio quella del momento attuale dello sport. Qui ti chiedo una lettura. Sì, dello sport di base, chiamiamolo sì, così, perché chiaramente tanto ci si è focalizzati su altri temi che riguardano, non so, campionato di calcio di Serie A o cose del genere, ma la situazione alla quale è sottoposta lo sport di base e i suoi fruitori, quindi fondamentalmente ragazzi che magari, come dice la canzone, uno su mille arriveranno anche a essere dei campioni o a vincere delle medaglie olimpiche, ma tutti gli altri sono cittadini che subiranno un costo e pagheranno un costo che non abbiamo ancora stimato e forse non è ancora neanche troppo chiaro, e mi riferisco davvero a un costo sociale, a un costo culturale, ha un costo anche economico e di ulteriore così pressione sul sistema sanitario nazionale, che già di suo ovviamente di pressioni ne sta ricevendo a sufficienza. In questo momento la situazione non voglio esagerare, però è letteralmente drammatica, nel senso che la commistione di alcuni fattori che riguardano gli spazi, i posti dove lo sport si poteva fare e oggi non si può più fare, i costi laddove ancora si riesce per sostenere tutte le procedure e invece i soldi che non stanno entrando nelle casse delle società sportive, perché le famiglie ovviamente stanno riducendo la propria disponibilità di spesa, perché tutti sono un po' spaventati, perché i piccoli investitori che sostenevano quello sport lì non riescono più a farlo. La somma di queste condizioni crea una tempesta perfetta che fa sì che oggi una delle tante cose drammatiche che ci stanno succedendo riguardi una lenta agonia che lo sport di base sta subendo, con il rischio gigantesco che tutti coloro che non ce la faranno, fuor di metafora, ahimè, non possiamo ovviamente scherzare con i termini in un momento come questo, ma che non riusciranno a sopravvivere a questo impatto, difficilmente ricominceranno a farlo o potranno farlo in futuro. Quindi no, ma vedi Mauro, a me e a Pierluigi, ma lo esprimerà lui meglio di me, il nostro sentimento, cioè quello che spesso abbiamo l'impressione che lo sport, l'attività sportiva, da quella professionistica a quella di base, sia considerato quasi un lusso superfluo. È questo, no Pier? Assolutamente, guarda, noi siamo in una chat insieme dalla quale io sono drammaticamente assente, quindi mi scuso perché dovrei dare un contributo, però quello che mi viene veramente in mente, io penso questo, che sia da pazzi fare sport se c'è un rischio. In questo momento noi siamo in una fase di emergenza, di nuovo purtroppo, per cui lasciamolo decidere veramente ai comitati tecnici, scientifici, se si può fare sport o non si può fare. Lo dico, ci sono la lettera di Giannini l'altro giorno gli mandiamo un abbraccio, è commovente, toccante, dice: possiamo perdere, dobbiamo perdere degli spazi di libertà in una situazione di emergenza. Quindi io questo non lo trovo drammatico. Quello che trovo drammatico è che in questo paese mi sembra che ci sia molto spesso una sottovalutazione dello sport come fenomeno culturale, come fenomeno sociale, come fenomeno sanitario, perché tutte le ricerche di tutto il mondo dicono che se tu investi in sport e fai praticare lo sport alle persone, diminuisci la spesa sanitaria, migliori le condizioni di vita, le condizioni di salute delle persone. Quindi se non la vuoi vedere dal punto di vista culturale, vedila da questo punto di vista. Allora io penso che qui ci sia da fare una grande ripartenza. La ripartenza ovviamente si basa, per quanto riguarda le società sportive, sul fatto che chi non, esattamente come succede per le altre attività, chi in questo momento si deve fermare deve essere ristorato. Cioè questo è indiscutibile. E, insomma, a me piacerebbe che gli sportivi italiani, che sono tanti, sono grandi e che hanno, si mettessero a un tavolo e facessero un appello proprio culturale, perché francamente io vedo tante volte delle ironie nei confronti di questo mondo, come se lo sport fosse veramente un dio minore, e non lo è, non se lo merita. Negli altri paesi non è così, non ci sono le polemiche. Non si riduce il mondo del calcio, il mondo dello sport, allo stipendio di Cristiano Ronaldo o di Ibrahimovic. Assolutamente. Mauro, allora intanto ringrazio per questo intervento, lo completo dicendo che il rapporto di risparmio generato dal Servizio Sanitario Nazionale è calcolato con grande esattezza da migliaia di pagine di letteratura scientifica e si polarizza più o meno in un rapporto 1-4, cioè un euro investito sull'attività sportiva di base, quella che io chiamo cultura del movimento, quindi riguarda i dodicenni come gli 85enni, no? Chiunque si avvicini a una cultura del movimento ne fa risparmiare 4 al Servizio Sanitario Nazionale. Non è un'opinione mia questa, ci sono dati, migliaia, ripeto, di pagine di ricerche che lo dimostrano, quindi concordo completamente. Aggiungo un pezzo che invece riguarda il mentre, cioè nel senso l'oggi, il qui e l'ora, perché credo che una pandemia fondamentalmente si combatta paradossalmente attraverso atteggiamenti virali. Cioè se invece che una persona in una stanza indossa la mascherina sono 10, sono 15, sono 20, è meglio. Se invece che 8 milioni di persone scaricano l'app Immuni, la scaricano in 15 milioni, è meglio, premesso che poi funzioni ovviamente. Ma atteggiamento virale in questo momento virtuoso potrebbe essere oggetto di quell'esercito, perché è un esercito, di ragazzi, di atleti, di allenatori, di dirigenti, di volontari. Il mondo dello sport di base, nel mondo dello sport di base lavorano, prestano il loro servizio la metà dei volontari che si occupano di tutto il resto del nostro paese. Potrebbero diventare queste società sportive, che oggi sono così in difficoltà nel fare la loro attività, dei focolai di atteggiamento virtuoso. Cioè, su questo ne sono certo, perché chiunque abbia frequentato, diciamo, a qualunque livello, uno spogliatoio, una squadra, abbia giocato in quel contesto, sa benissimo che in questo momento lì ci sarebbero delle risorse per innescare atteggiamenti virtuosi e combattere in questa maniera. Magari è vero, oggi si può giocare di meno a pallavolo, pallacanestro, in certi ambienti, in certe discipline, però quell'esercito di persone che è, tra le altre problemi che deve risolvere, ha anche quello di aver perso un pezzo così importante della propria vita, oggi dovrebbe essere non solo tutelato e sostenuto, come si diceva, ma potrebbe essere utilizzato in maniera virtuosa. Questo è quello che mi fa anche arrabbiare, perché è avere una risorsa. Mauro, io devo chiudere il programma, però intanto noi ci pregiamo di utilizzare te. Grazie davvero Mauro Berruta, per Luigi Pardo, Claudio Schettone, Gianmarco Ferronato, tutti convocati domani. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.